Hi, this is Fergal. Happy Christmas to everybody. Auguri da Giuliana. Auguri da Jackie. Auguri da Pina. Auguri da Enzo Danna. Auguri da Laura Viggiano. Auguri da Armando. Auguri da Gisella. Auguri da Jerry. Auguri da Ciro Cacciola. Buone feste da tutti noi di Club 91. Happy Christmas. Club 91.